Roma Trastevere, 14 dicembre 1966. Caro Eleuterio, il Natale è nell'aria e in questa casa. Mia madre sta già preparando l'abete tradizionale e io sono depressa, molto depressa. Le vetrine scintillano di luci e di sfere colorate. Le sfere colorate sono le bolle di sapone che i maestri vetrai di Murano fanno per gioco durante le feste. E tu sei uno stupido e un arido se anche in questo clima di bontà riesci a organizzare una lite solo per uno scarabocchio su un pezzo di carta, sempre tua. Roma Parioli, 15 dicembre 1966. Inevitabile sempre mia. Lo so che il Natale è nell'aria. Mi stupisce che sia anche nella tua casa, dove per coerenza, data la presenza di tua madre, dovrebbe essere un'eterna festa dell'Epifania. È antipatico bisticciare per uno scarabocchio su un pezzo di carta, ma quando il pezzo di carta è un effetto a 30 giorni e lo scarabocchio una firma da rispettare pagando una cifra considerevole, allora la lite è inevitabile. Ciao. Ho scritto. Ieri ho incontrato tua madre. Era fissata sul petto di un pastore ciociaro, il quale le soffiava in un orecchio per farle mettere suoni natalizi. Eleuterio. Roma Trastevere, 16 dicembre 1966. Caro Eleuterio, non ti dico nemmeno gatto perché non lo meriti. La mamma, poverina, ti pensa sempre, anche se non lo lascia capire. Ieri sera, per esempio, in televisione c'era Luttazzi che faceva uno dei suoi soliti discorsi strani e la mamma ha detto: sembra quello sprovveduto di tuo marito quando parla sul serio. Ho davanti agli occhi la tua fotografia da soldato e penso che una fotografia è soltanto uno stop per la macchina del tempo che poi riprende a correre. E se lo scarabocchio sul pezzo di carta rappresentava la mia firma, non è colpa mia. Non sono mai riuscita a imitare la tua. Sempre tua. Roma Parioli, 17 dicembre 1966. Cara sempre mia, la tua assenza è terribile per me. Posso telefonare quando voglio. Il bagno è a mia disposizione. Dormo con 3 coperte di lana e le camicie che mando in tintoria tornano perfettamente stirate e danno un senso di abbandono che non ti so dire. E non è tutto. Nessuno mi dà lo spunto per dire male di tua madre, il che mi fa soffrire quasi fisicamente. Torna, anche perché qui è tutto in dissesto. Ho provato ad accendere il caminetto, ma non tira. E la stanza si è riempita di fumo acre e nero. Ciao. Ho scritto. Per fortuna è arrivata la portinaia. Non è il caminetto che non tira, è il mobile bar. Eleuterio. Roma Parioli, 17 dicembre 1966. Caro Eleuterio, micione. Rieccomi qui, nella casa comune di noi due, che mi è molto cara, anche se spesso per ragioni di belligeranza me ne vado in quell'altra. Sotto il soprabito appeso in ingresso ho scoperto l'abete che hai comprato per noi. Eleuterio, non si mette il soprabito sull'abete. E le sfere colorate non si appendono sull'uomo morto, non fanno nessuna figura. Sono qui che ti aspetto, ripensando allo sciocco motivo della nostra ultima lite. Ma quando rientrerai, farò finta di niente. Tu stavi rientrando. Ciao. Sei già in casa, Eleuterio? No, sono in terrazza. Oh, che ci fai in terrazza a quest'ora? Ma sei qui. Continui a dire bugie, Eleuterio, lo sai che non mi piace. E tu continui a dire la verità, sai che sei un'oca. Ma dove ce l'hai il cervello? Fuori stanza, eh? Quando rientri sei sempre nervoso. Quando esci anche, ha ragione mia madre. Per favore, non incominciamo con le cose tristi. Mia madre non è una cosa triste. Hai ragione. Tua madre è soltanto una cosa. Che novità ci sono? Nessuna novità. Solo che tra qualche giorno è Natale. E allora? E allora bisogna fare un regalo a mia madre. Giusto, giusto, giusto, giusto. Vediamo un po'. Un regalo a tua madre. Un abbonamento per tutto l'anno dal mio barbiere. Ho deciso che non meriti risposta. Perché quella che meriteresti non te la posso dare. Allora non te ne do nessuna. Comunque, la poverina desidererebbe un nuovo televisore. Anche considerando che io ritengo il televisore un mezzo di offesa, quindi non avrei niente in contrario a mandarglielo, non mi sento di spendere tanti soldi per tua madre. Ma perché? Perché alla sua età insiste a indossare abiti femminili, a parlare al femminile con voce baritonale. E poi perché no? È arrivata posta? Sì. Ti ha scritto Antonio da Milano. Lo hanno trasferito a Bari. Hai aperto la lettera? Non volendo, mi sembrava la calligrafia di Marcella. Scusa, da quando in qua Marcella ti scrive? Abita al palazzo di fronte. Fino a 2 mesi fa mi ha sempre scritto. Ma fino a 2 mesi fa eri in Francia ed era giusto che ti scrivesse. Ora è tornata in Italia. Secondo te chi sta in Italia non scrive? No, non è possibile. Ma non si può ragionare così. Non si può fare della vita di un uomo onesto un incubo costante. Uffa! Ma chi ti dice che quell'affare andrà in porto? Che guadagnerete un bel mucchio di soldi. Ah sì? E come te l'ha detto? Non lo ha detto a me. Lo ha detto nella lettera che ha scritto a te e che ho letto io. Quante volte io ti devo ripetere che la mia corrispondenza non la devi aprire? Non sapevo che fosse per te. Prima del tuo nome c'era scritto egregio. Tu non sei egregio? Allora l'ho aperta. No, non sono egregio. Ma un giorno, egregiamente, mi conquisterò quella abbreviazione alla quale aspiro da tempo. Cioè? Ved! Ved! Stupido! Invece di dire scemenze, pensa al regalo per mia madre. No! Ne riparleremo. E questa busta che cos'è? Non lo vedi? Un avviso di cambiale. Cambiale? E a chi dobbiamo pagare una cambiale? Non lo so. Non apro mica la tua posta, io. È indirizzata a te. Allora deve essere quello degli elettrodomestici. Quello dove ho comprato il televisore per mia madre. Ah sì? Tu hai comprato un televisore per tua madre, eh? E io lo sai che faccio adesso? Io? Non ti avvicinare, Eleuterio! O chiamo gente! No, io... E non gridare, non io, insultarmi, no, come no, sempre! Non ne posso più! No, sei un brutto, no, donna io... da mia madre! Hai capito che non devi urlare? Ma quando rientrerai, farò finta di niente. Ciao. Eleuterio, ho avuto una magnifica idea in merito al regalo da fare a mio padre per Natale.